Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Ed eccoci con voi dopo le vacanze natalizie, che spero abbiate passato tutti in buona compagnia, bene, che siate stati bene, che abbiate mangiato, spero non troppo, e così riprendiamo le nostre trasmissioni e vi salutiamo tanto e come sempre affettuosamente da parte di Gesi e di Antonio. Ciao Antonio. Siamo ritornati. Ecco, Antonio stasera fa l'ospite, invece che essere qui in studio è per telefono, vero Antonio? Naturalmente, e diamo come al solito il benvenuto agli amici su Blu Radio Veneto per questo percorso ideale, questo sentiero tra i ricordi del passato. Naturalmente ricordiamo che il nostro indirizzo è bluradioveneto.it e che c'è la possibilità di download e di ascolto in streaming della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Esattamente. E le frequenze sono 94.600 e 88.700. Naturalmente. Bene. Allora, stasera abbiamo due ospiti in studio. Allora abbiamo la signora Silvana Crozzolin, che è nipote di Monsignor Crozzolin, che è deceduto nel 2005, accompagnato dal signor Giacomo Buldo. Saluto tutte e due cordialmente, naturalmente. Ecco. Buonasera a loro. Grazie. Anche a te, buonasera. Silvana Crozzolin è nata a Pordenone, vive a San Cipriano di Roncade, di Treviso, il paese dove è sempre vissuta la sua famiglia. Attraverso i propri ricordi e con la documentazione che conserva, ricostruisce l'alto profilo morale ed intellettuale dello zio sacerdote, al quale era particolarmente affezionata. Diciamo che la trasmissione verterà tutta sulla figura di questo Monsignor Crozzolin. Poi abbiamo Giacomo Buldo, che è uomo di cultura ed appassionato di poesia, letteratura, cinema e teatro. È stato consigliere comunale ed assessore alla cultura del comune di Roncade. Benissimo, adesso noi ti ascoltiamo la prima canzone e poi diamo la parola ai nostri ospiti. Allora, la prima canzone in programma è una canzone ben augurante, quindi facciamo gli auguri a tutti quanti di un buon anno con la voce di Achille Togliani, che canterà Buon anno, buona fortuna. Mezzanotte, l'anno che muore ci saluta, mesto sembra, sorge l'alba, spera ogni cuore che il nuovo anno lieto sarà. Buon anno a chi è felice nella vita, buon anno alla spigliata gioventù, un'altra primavera è già sfiorita, buon anno a chi vent'anni non ha più, a chi sognando in seguito è una chimera, splendida divina, col sorriso del sole d'oro, che ogni rosa sia senza spina e nel cuore regni l'amore. Buon anno a chi è felice nella vita, buon anno a chi da casa domani il più bel sole splenderà. Buon anno ai bimbi che non ha nessuno, li bacerà dal cielo la mamma luna. Noi li stringiamo al cuore ad un ad uno. Buon anno. E quindi buon anno a tutti voi. Allora, adesso leggerò un piccolo trafiletto che io ricordo di Monsignor Crozzolin. Monsignor Umberto Crozzolin è nato nel 1920 ed è morto nel 2005. Fu consacrato sacerdote a Vedelago il 25 giugno del 1944. Ha professato la missione sacerdotale per 61 anni in modo intenso. La particolare caratteristica che lo ha contraddistinto è stata la capacità di raggiungere obiettivi importanti a servizio della comunità, lavorando con umiltà e generosità. Il suo nome è legato alla ricostruzione del seminario vescovile di Treviso, distrutto dal bombardamento del 1944, alla costituzione e fondazione della Caritas nazionale tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70, alla missione umanitaria dei Boat People vietnamiti e ai soggiorni estivi di Papa Giovanni Paolo II a Lorenzago di Cadore. Nominato segretario del Vescovo Vittorio D'Alessi, rettore del seminario e vescovo della diocesi di Concordia Sagittaria, Portogruaro, fino al 1949. Segretario del vescovo Gioacchino Muccin della diocesi di Feltre Belluno fino al 1951. Richiamato dal vescovo di Treviso, è nominato economo del seminario dal 1952 al 1966. Nel 1966 il vescovo Mastrorigo gli affida la direzione dei soccorsi a seguito dell'alluvione del bacino dei fiumi Piave e Livenza. Nel 1971 viene scelto come vice direttore dell'ufficio amministrativo della Curia e membro del Consiglio diocesano per gli affari economici. Alla fine degli anni 60 viene scelto dalla CEI tra i 9 delegati nazionali che contribuiscono alla fondazione della Caritas italiana, della quale sarà per 12 anni membro del Consiglio nazionale e dal 1973 direttore della Caritas Tarvisina. Dal 1972 è canonico effettivo della cattedrale di Treviso. Nel 1976 e nel 1980 coordina gli aiuti in occasione dei terremoti in Friuli ed in Irpinia. Nel 1979 dirige le attività caritative nei confronti dei Boat People vietnamiti, con numerosi profughi ospitati nei nostri territori. Nel 1983 è nominato direttore dell'ufficio amministrativo e del museo diocesano e presidente della biblioteca capitolare, premio Roncola d'oro della città di Roncade, conferito a personalità che abbiano contribuito a rendere illustre la comunità roncadese in campo politico, sociale, culturale, artistico o umanitario, nel 60 anniversario del sacerdozio. Ecco, adesso io ho letto un piccolo profilo del Monsignor Crozzolin e adesso diamo la parola ai nostri ospiti. Chi desidera cominciare? Sono Giacomo e volevo parlare un po' con l'autrice di questo bel libro, che più passa il tempo e più lo rileggo, più do valenza al contenuto, perché vuole conoscere la storia della curia della Chiesa Trevigiana dal primo dopoguerra fino al 2000. Quindi chi vuole essere portato a conoscenza di questo può farlo attraverso il libro. Il libro è stato, si intitola Andremo a fare le ferie in paradiso, in ricordo di Monsignor Umberto Crozzolin, e l'autrice è sua nipote Silvana Crozzolin, l'editore Piazza Editore. E alla fine leggeremo un brano che si intitola appunto Andremo a fare le ferie in paradiso, e che è tratto dalla vita del popolo. Abbiamo qui con noi la nipote, era molto affezionata a questo suo zio, che nonostante l'apparenza e nonostante la poca conoscenza che ne aveva la popolazione e la gente, è stato un grosso personaggio, e più si fanno ricerche su documentazioni che lui ha lasciato e più ce ne rendiamo conto. Silvana, volevo chiedere, perché, è una domanda banale se vuoi, ti è venuto in mente o hai voluto scrivere questo libro? Ma ho voluto che ci fosse questo libro perché ho ritenuto importante conservarne la memoria di mio zio, dato che nell'umiltà e nella sua riservatezza ha portato a non lasciar trapelare il suo impegno e l'importanza del suo operato. Spesso mi piace ricordare quanto diceva il suo amico, Don Mario Bragagnolo. Don Mario diceva: Don Umberto ha fatto sbocciare tanti fiori e Monsignor Crozzolin si può paragonare alla viola che è nascosta. È nascosta tra l'erba, spesso è calpestata ed è il fiore che annuncia la primavera. Bello questo paragone. Sì, mi piace molto. Sì. E poi ho voluto anche questo volume perché durante le mie ricerche in ambito clericale mi sono accorta che alcuni sacerdoti non riuscivano a cogliere le varie sfaccettature della sua complessa personalità. Tutti lo pensavano solo come economo, insomma il prete degli affari, senza sapere quanto metteva al primo posto i valori cristiani più veri al servizio dei bisognosi. Grazie, hai dato un'impostazione, un input molto interessante, molto umano, molto bello. Per cui prima di avventurarci in un paio, due, tre letture che dimostrino la sua complessa personalità e valenza, volevo che tu continuassi a parlare della figura di tuo zio. Mio zio l'ho conosciuto tardi, nel senso che, in questo senso, dopo la morte dei miei genitori, mio zio, silenziosamente, come era solito fare, mi ha adottata nel senso spirituale. Sono stati pochi anni, insomma, troppo pochi, dico io, però sono stati anni intensi da lasciarmi un'eredità molto ricca. Era sempre attento e sempre disponibile, non chiedeva nulla e soprattutto non voleva che gli altri venissero appesantiti dai suoi problemi. Aveva un grande spirito umanitario che ha saputo mettere a servizio della Chiesa, dei superiori e dei più deboli. Aveva amici e teneva corrispondenza con vescovi italiani e internazionali. Mi viene da pensare, mi viene da dire che nessuno è profeta in patria. E proprio per la sua umiltà, pochi erano a conoscenza di quanta ricchezza culturale e umanitaria era dotato. Era uomo obbediente e molto severo con se stesso. Mi viene adesso in mente che tra i documenti, e non sono fra quelli scritti in questo volumetto, ho trovato una lettera che lui scrisse al vescovo di Treviso nei primi anni 50, nella quale chiedeva di continuare gli studi. Allora era segretario del vescovo Mucci. Il vescovo Mantiero, che era il vescovo di Treviso, glielo ha negato e poi l'ha richiamato in Treviso. Io penso quanto dispiacere abbia provato, perché, come lo descrive il vescovo Magnani, Monsignor Crozzolin è stato un uomo di curia, un sacerdote di carità e un sacerdote di pietà eucaristica. Chissà perché gliel'hanno negato. Questo non si sa. Non si sa, vabbè dai. Allora ci fermiamo un momentino, sì, e ci ascoltiamo un altro brano che è cantato da Giovannotti, è una storia d'amore. Io ti guarderò, illuminata con il neon delle vetrine, e poi ti nutrirò di Coca-Cola e di popcorn dentro ad un cine. Ti racconterò le mie bugie sul mondo e quelle sulla gente. E poi ti bacerò con tutto quanto in fiamme e con le luci spente. E faremo l'amore sulle foglie e sui prati, sul denaro e nel fuoco, dentro ai posti proibiti, fino al cuore del mondo, come due innamorati, come due innamorati. Senza niente da fare, che non hanno nient'altro che una storia d'amore. Io ti curerò perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto. E ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiati e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato. E faremo l'amore dentro ad un temporale, tra le luci del centro, tra le statue di sale, con il cuore impazzito, come due innamorati, come due innamorati. Senza niente da fare, che non hanno nient'altro che una storia d'amore. Ed eccoci di nuovo in studio e diamo la parola a Giacomo. Velocemente, fra poco coinvolgeremo il nostro amico attore Antonio Ceccato, che leggerà alcuni brani per farci entrare nell'atmosfera degli anni di cui parliamo. Il libro si suddivide in tre parti. La prima parte è relativa al premio, per cui poi la sua nipote dirà anche qualcos'altro rispetto a quello che ha detto la nostra amica Gesi. Poi c'è gli anni di sacerdozio, quanto mai importanti per conoscere questa figura, e alla fine si finisce con la morte e il ricordo molto struggente di tante persone. Allora, per quanto riguarda gli anni di sacerdozio, ci piacerebbe che Antonio Ceccato ci leggesse qualcosa dei brani che lui può scegliere o ha scelto a sua discrezione, perché lui è molto bravo, ormai ci capiamo sì, immediatamente quando dobbiamo presentare qualche libro, e do la possibilità di scelta a lui, ce ne sono diversi. Ci sei, Antonio? Sì, ecco. Allora pensavo di leggere un ricordo di Don Bruno Gumiero al suo compagno di studi in seminario vescovile. Don Umberto, da sempre un amico fraterno. Sebbene ricordo, Umberto Crozzolini ci ha raggiunto in seminario, noi alunni di quarta ginnasio, nell'anno scolastico 35-36. Si presentava piccolo di statura, mingherlino, dal viso apparentemente un po' triste, gentile nel tratto e dal parlare sommesso, diligente e impegnato a scuola. Fu molto facile accettarlo nella nostra classe, divenne subito amico di tutti, un amico discreto, che non pretendeva di imporre la sua amicizia. Con lui si potevano fare discorsi impegnati, non frequenti a quell'età. E siamo vissuti insieme fino al 25 giugno del 44, gli anni della nostra formazione e preparazione al presbiterato, anni di grande impegno, segnati da non pochi sacrifici che la vita del seminario in quel tempo richiedeva, sacrifici moltiplicati per 100 dalla guerra. Ricevemmo l'ordinazione sacerdotale il 25 giugno del 44 nella chiesa parrocchiale di Vedelago, dove eravamo sfollati dopo il bombardamento aereo di Treviso. Diventammo preti diocesani in 19, più 3 religiosi giuseppini. Grande fu la nostra gioia spirituale, anche se per l'imperversare della guerra erano tante le tribolazioni e la paura incombeva sempre. Dopo un mese dalla data di ordinazione, tutti ricevemmo, con un biglietto del vicario generale, la personale destinazione al servizio pastorale. Devo dire, per dovere di sincerità, che restammo sorpresi per la destinazione di Don Umberto, segretario del Vescovo d'Alessio a Portogruaro. Qualcuno disse, un uomo così timido a quel posto? Ma Don Umberto, proprio in quel posto, operò così bene che un altro vescovo, quello di Belluno, dopo la morte di D'Alessi, lo volle come suo segretario. A Belluno rimase fino a quando il vescovo di Treviso lo richiamò in patria per servire nella chiesa diocesana, prima in seminario, poi nella curia vescovile e contemporaneamente nella Caritas e come canonico del capitolo della cattedrale. A Don Umberto furono affidati compiti prevalentemente di ordine amministrativo, si direbbe non proprio sacerdotali, ma Don Umberto nel settore amministrativo ha operato unicamente come prete a servizio della Chiesa e delle sue opere con competenza, generosità, spirito di umile servizio. È questa la testimonianza che alla sua morte gli ha reso tutto il clero della diocesi. Per un notevole periodo di tempo a Don Umberto fu anche affidata la missione del servizio della carità per conto della Chiesa diocesana. Questo servizio per iniziative, attività, presenze in Italia e all'estero, assistenza alle singole persone, ha manifestato la straordinaria ricchezza della carità pastorale di Don Umberto. Su questo piano gli rende una particolare testimonianza la comunità vietnamita che per sua iniziativa ha trovato generosa accoglienza tra noi. Sono lieto di rendere in spirito di fraterna amicizia questa testimonianza a Don Umberto che io ricordo come uomo di Dio per via di fede ed esempio di carità. È vissuto ed ha operato nel silenzio che è proprio delle persone umili, ma questa è la strada per la quale passa il Signore. Bello questo pezzo, molto bello. Grazie Antonio. Allora, fai tu qualche domanda, Giacomo? Sì, e continuiamo un po' sulla nostra strada. Volevo dire che Monsignor Crozzolin, in questa parte del libro che riguarda la sua attività di sacerdote, ha intessuto molte reti di corrispondenza di vario tipo. Abbiamo lettere dei genitori, dei parenti, abbiamo lettere di tipo internazionale con contatti con Monsignor Fulton, che io me lo ricordo dei film hollywoodiani degli anni 50, dei film che trattavano di argomenti cattolici, oppure da altri preti che sono finiti poi grazie al suo aiuto negli studi addirittura come nella segreteria del Santo Padre e naturalmente i vari vescovi. Volevo lasciare ad Antonio un'altra lettura che lui scegliesse per dare il senso di questa ramificazione che aveva questo piccolo prete. Benissimo, allora sono due corrispondenze, una con un familiare, il fratello Beppi, e l'altra di appunto Fulton Sheen. San Cipriano, 27 marzo 1945. Don Umberto carissimo, abbiamo ricevuto la tua cartolina e che hai fatto un buon viaggio. Noi tutti stiamo bene e così speriamo di te. Vito ha scritto due cartoline, una in data del 26 aprile 44 e una in data del 16 giugno 44. Dice che sta bene e che è da più di un anno che non vede nostre notizie, e cioè è in pensiero per noi. Ho da farti sapere una buona notizia, e cioè di Lorenzino Crozzolin, figlio di Maria e del zio Lorenzo Cioci, che si è rimediato e che ora si fa Santa Croce e bacia le sacre immagini. Lei ti ringrazia molto e ti salutano tutti di famiglia. La mamma ti ringrazia molto della lana che hai trovato. Io mi sono comperato un vestito che mi costa un po' a caro prezzo. Con il nostro lavoro continuiamo sempre bene. Altro non ci resta solo di augurarti buona Pasqua a te e a Sua Eccellenza e famiglia compresa. Saluti fratello Beppi e tutta la famiglia. Questa è la lettera, sì, del fratello, fratello, esatto. Sì. Mentre una lettera inviata da Monsignor Umberto alla Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Fulton J. Sheen, New York, Treviso, 10 maggio 1956. Eccellenza Reverendissima, una voce da Treviso, la diocesi di San Pio X. Lo scrivente è l'amministratore del seminario diocesano, un istituto popolato da oltre 500 persone. Il complesso di edifici che istituto vorrei definire quasi un piccolo Vaticano è stato duramente colpito dalla guerra. Per una fattiva unità e generosa carità di clero e fedeli, l'opera di ricostruzione è quasi ultimata. Naturalmente in quest'opera si è voluto tener conto di tutti gli indirizzi più recenti dati dal Santo Padre relativi alla formazione del clero. Tra questi, accanto al seminario, la costruzione del convitto ecclesiastico per il giovane clero. Dati i tempi, l'ambiente moderno, le organizzazioni varie di apostolato ed anche il provato ritardato sviluppo psicologico dei nostri giovani, l'opera appare più che opportuna e urgente. Ma per noi c'è di fronte la difficoltà economica. La diocesi, infatti, in questi anni della ricostruzione ha dato quanto poteva dare. Ora non si vede la possibilità di insistere nel chiedere ulteriori sacrifici. Ed ecco allora un'idea, se vuole ardita e presuntuosa, ma bella perché dettata da un ideale. Vostra Eccellenza è ben nota e stimata in tutta l'America, anche per le frequenti e assai interessanti conversazioni televisive. In America poi ci sono tanti italoamericani che tanto entusiasmo hanno sentito e dimostrato per la glorificazione del nostro Santo Pontefice Pio X. Perché non unire e spingere le anime generose e facoltose di questi a dare un nobile attestato di devozione al grande Pontefice e a costruirsi un pegno di particolare protezione con il donare al seminario che Monsignor Giuseppe Sarto diresse spiritualmente il convitto ecclesiastico? Il preventivo di spesa non è eccessivo, circa 30 milioni di lire pari a 50.000 dollari, 50.000 italoamericani che offrono un dollaro per ciascuno e l'opera sarebbe compiuta. Faccio presente una circostanza storica che potrebbe essere motivo all'iniziativa: il 50° anniversario della lettera enciclica Pieni l'animo sui giovane clero, pubblicata da Pio X il 28 luglio del 1906. Concludendo, vorrei pregare l'Eccellenza vostra Reverendissima di farsi valido strumento della Divina Provvidenza per lanciare, con quella delicatezza e sensibilità d'animo che le è propria, dalla televisione un caldo appello per l'iniziativa ai cattolici ammiratori e devoti del grande Pontefice, il cui patrocinio fervidamente invoco per tutte le intenzioni dell'Eccellenza vostra. Mentre rimetto la proposta alla benevolenza di vostra Eccellenza, chiedo scusa al mio ardire e una particolare benedizione per me e per il mio seminario, professandomi devotissimo sacerdote Don Umberto Crozzolin. Belle lettere. Ecco, allora ci fermiamo un momentino per un'altra canzone e poi sentiamo. Allora, la terza canzone in programma è Lei c'è, cantata questa volta, sarebbe una canzone che ha lanciato Adamo, però la canterà qui Francesco Renga. Thank you. forse sarà la prima che io non potrò dimenticare. La mia fortuna è il prezzo che dovrò pagare. Lei è la canzone nata qui, che ha già cantato chissà chi. L'aria d'estate che ora c'è, è il primo autunno su di me. Lei, la schiavitù, la libertà, il dubbio, la serenità, preludio a giorni luminosi oppure bui. Lei sarà lo specchio dove io rifletterò progetti e idee, il fine ultimo che avrò da ora in poi. Lei, così importante, così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente, imprevedibile. Lei, forse l'amore troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me, per starmi accanto fino a che vivrò. Lei, a cui io non rinuncerei, sopravvivendo accanto a lei, ad anni combattuti e avversità. Lei, sorrisi e lacrime, ovunque vada arriverei, a passo accanto a lei. Eccoci di nuovo in studio, e a te Giacomo una parola. Sì, prima di passare all'ultima parte del libro, volevamo chiedere ancora alla nipote Silvana Crozzolin che ci parlasse un po' più approfonditamente, in profondità, delle attività di suo zio, magari partendo da una da un inserto, da alcune pagine che sono inserite nel libro, l'intervento del professor Zanin, e quindi volevamo sapere cosa lui ha prodotto durante la sua professione di prete, e dopo le motivazioni un po' più approfondite della roncola. Sì. Allora, dall'intervento del professor Luciano Zanin, nell'intervento c'è una parte della storia di mio zio. Io mi ripeterò un po', già alcune cose Gesi le ha anticipate. E Luciano ricorda la fedeltà, la vocazione ai suoi vescovi, alla realtà missionaria. Lo ricorda molto bene nel suo intervento. E appena consacrato, prima Gergi lo ha detto, nel 1944 Monsignor D'Alessi lo richiede come segretario e vi è rimasto fino alla morte del vescovo, e poi Monsignor Mucin, vescovo di Feltrebelluno, chiede al vescovo di Treviso di poterlo avere come suo segretario. Il vescovo Mantiero gli concede 3 anni, poi lo richiama in diocesi, gli affida l'ingrato compito di economo del seminario, il seminario che è stato distrutto dalla guerra, con 500 studenti che ogni giorno bisognava pensare per il vitto e per l'alloggio. Ha ricostruito il seminario. Poi, alla fine degli anni 50, acquista e ristruttura il castello Mirabel di Lorenzago, che diventerà dimora estiva per il seminario. Sempre a Lorenzago costruisse la casa delle suore e la casa del vescovo, dove è stato ospite anche Papa Giovanni Paolo II e mi pare anche Benedetto XVI. Sì. Ha costruito la colonia Stella Maris di Jesolo. Ha acquistato la colonia di Zoldo per i bambini bisognosi, perché questi potessero trascorrere qualche tempo d'estate. Entra a far parte dell'ODA, che è l'opera di assistenza, ed interviene subito, immediatamente come è entrato a far parte, ha dovuto allarmarsi per gli alluvionati del 1966. Apre alla realtà degli obiettori di coscienza. Istituisce il CEIS, Centro di Solidarietà Servizio per le Dipendenze. È stato cofondatore della Caritas Nazionale, responsabile della carità regionale e della carità tarvisina, come detto sempre Resi prima. È intervenuto al terremoto del Friuli. Nel 76. Sì. Poi fra gennaio e febbraio dell'80 appunto ha avuto l'incarico dal governo italiano e dall'alto commissariato dell'ONU per i rifugiati di andare in Vietnam per la missione umanitaria dei Boat People. Ha organizzato e portato in Italia 500 vietnamiti circa, per tutti ha trovato casa e lavoro. Nel libro c'è un capitoletto proprio scritto della missione, molto organizzativa. Qualcuno in questo periodo dovrebbe anche imparare da come lui ha organizzato. Facciamo leggere. È molto complessa. Molto, ecco. Poi è intervenuto nel terremoto dell'Irpinia, ha avviato la raccolta di vestiti usati. Per 30 anni ha ricoperto la presidenza della CAI, Associazione Cristiana Artigiani Italiani. Nel 75 fa partire l'iniziativa Un pane per amore di Dio, che oggi è generalizzata. Nel frattempo era vice direttore amministrativo della Curia. Nel 1983 è stato nominato direttore dell'ufficio amministrativo della Curia fino al 1999. Lo stesso anno è nominato direttore del Museo Diocesano, lo ristruttura e lo riorganizza. È stato presidente della Biblioteca Capitolina Diocesana, dal 72 è canonico del capitolo e dal 2000 ricopre la carica di presidente del capitolo stesso. Era un uomo dotato di gusto affinato per le cose belle, per i viaggi, organizzava per noi nipoti due volte all'anno un viaggio, lo organizzava anche per i dipendenti del seminario di Treviso e prima ancora per gli studenti del collegio Marconi di Portogruaro. Sì, perché lui è stato anche a Feltre, no? Sì, è stato prima a Portogruaro e poi a Feltre. Sì, sì. Era un esperto d'arte, ci sono ancora, se volete ritrovare i vecchi Vita dal Popolo, degli articoli interessantissimi sulle opere d'arte nelle chiese di Treviso. Ah. E adesso passiamo alla Roncola un po' più. Sì. Ecco, sì. La Roncola, prima Gesi ha spiegato che cos'è. È un premio che il comune di Roncade ha istituito nel 1984 a quei cittadini roncadesi che con il loro comportamento, attività e pensiero abbiano contribuito a illustrare direttamente o indirettamente la comunità di Roncade. La scelta del premio per l'anno 2004 è caduta su mio zio, sulla figura di mio zio, su segnalazione di una commissione consiliare. E il motivo è questo: per i 60 anni di ministero pastorale e per l'incessante opera svolta per importanti istituti ecclesiastici e alla Caritas locale e nazionale, a sostegno di comunità e persone in gravi difficoltà sociali, economiche e politiche. Questo è stato il motivo. Benissimo, ha ricevuto un bel premio. C'è qualcosa a riguardo da poter leggere? Sì, guarda, no, volevamo andare un po' più avanti, perché così leggiamo sicuramente il testamento di Monsignor Crozzolin, che è di alto valore morale. D'accordo, d'accordo. Perché purtroppo, come succede nella vita, c'è anche la morte in agguato. Sì. In questo caso è stata banalmente, si è vista banalmente a colpire Monsignore dopo che lui era andato a confessarsi, quindi, ecco, cioè da cosa improvvisa, sì, una cosa improvvisa, un incidente d'auto, purtroppo sì. C'è la morte, dopo la morte ci sono ricordi sentiti, ci sono dolori non ancora sofferti, non del tutto sopiti, e quindi c'è questo suo testamento che vorrei chiedere ad Antonio Ceccato di leggere, mentre in chiusura della trasmissione vorrei che leggesse quel meraviglioso brano che lui ha scritto per La vita del popolo, Le ferie andremo a farle in paradiso, innanzitutto noi cinque e poi anche gli altri tutti. E sì. Allora, possiamo cosa dare... dice Antonio? Che andiamo in paradiso. Benissimo, tutti. Allora leggo il mio testamento spirituale. Sì. Nel momento grave e insieme grandioso di lasciare questo mondo, la cui realtà e la cui storia rimangono sempre immerse e pervase del mistero ineffabile e salvifico dell'amore trinitario di Dio, da umile sacerdote desidero lasciare come mio ricordo testamentario la seguente testimonianza. Ho fortemente creduto e considerato la celebrazione della Santa Messa come l'atto più sublime e principale di ogni mia giornata, cuore e centro del mio modesto ministero sacerdotale e di ogni mio servizio ecclesiale. In quel corpo spezzato e in quel sangue versato di Cristo ho trovato sempre tutto in ogni mia situazione esistenziale. Per questo, quasi come mia ultima messa, fin d'ora intendo inserire pienamente i momenti della mia morte nel sacrificio eucaristico che in quegli istanti sarà certamente celebrato in qualche altare del mondo. In questo contesto eucaristico diventi così la mia morte un ultimo atto, qui in terra, di lode e di ringraziamento al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, che con amore di predilezione per il battesimo, la vita della Chiesa e il dono inestimabile del sacerdozio, mi hanno introdotto nell'intimità di comunione della loro vita divina. Sia inoltre la mia morte, nella sua inevitabile sofferenza, atto di espiazione e di propiziazione, sempre in unione al sacrificio eucaristico di Cristo, per le mie innumerevoli colpe, negligenze e incorrispondenze, di cui nella mia faticosa e gioiosa esistenza mi sono reso responsabile e delle quali, per un'ultima volta, sento il bisogno di chiedere perdono al Signore, alla Chiesa e ai fratelli. Prego fiduciosamente la Madre mia dolcissima, la Vergine Maria, di prendermi per mano, di accompagnarmi lei stessa, insieme al mio angelo custode, ai miei santi patroni e agli spiriti eletti di mio papà, di mia mamma, dei miei fratelli defunti e del mio santo vescovo che mi ha ordinato sacerdote, al giudizio di Dio. Letifica, Domine, animam meam, in cospectu tuo. Amen. Grazie Antonio. Allora adesso, perché mi pare che il tempo scorre, sì, volevamo lasciare alla nipote Silvana ricordi su chi ha pensato e ha ricordato Monsignor Crozzolin. Quali sono le persone che ti vengono in mente, oppure diciamo i ricordi più interessanti, più sentiti da persone che tu conosci, sì, dal popolo e anche di persone. Però prima vorrei mettere un brano. Va bene, e poi certo, ascoltiamo. Allora, ci ascoltiamo cantata da Ramazzotti, Più bella cosa. Sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti canta subito brivido, sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché ancora per dirti che cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora. Eccoci di nuovo in studio, e allora diamo la parola alla signora Silvana. Sì, grazie. E nel libro troverete tanta corrispondenza, soprattutto con il vescovo Bruniera, che era un suo grandissimo amico, e con lui scambiava opinioni, pareri e anche situazioni di vita. Ma io vorrei ricordare le persone di San Cipriano, che con lui avevano un rapporto stretto e che scrivevano. Mi viene in mente Angelo Beraldo, il sarto di San Cipriano, Roberto Mazzon, il casuin de San Siran, e Monsignor Pasqualotto, padre Mario Pasqualotto, il vescovo di Manaus, che abitava vicino di casa ed era anche parente, padre Luigino Bassetto, che aveva i campi dietro alla casa di mio zio e che quando lo vedeva si incontravano e scambiavano sempre queste parole. E soprattutto ricordo Guido Zavarise, che lui era l'autista del seminario, un ragazzino piccolo che a 16 anni il parroco di Cornuda lo aveva raccomandato per farlo lavorare, perché di una famiglia umile e povera. Lui, questo ragazzino, l'ha cresciuto come fosse suo figlio, tuttora ne è sempre grato. Grazie. Comunque, Zavarese non mi è nuovo come nome. No. Abita qui a Treviso? Adesso abita a Carbonera. Ah, ecco, non mi è nuovo come nome. Ricorda qualche aneddoto, qualche piccola curiosità? Per esempio, ricordo di Zavarese che piccolino di 16 anni lo portava assieme e lo faceva guidare il camion. Ah. In una delle uscite la polizia l'ha fermato e lui gli ha detto no, è successo niente, perché così volevo provare, insomma ha cercato in qualche maniera di farla passare la cosa, pur sapendo che non andava bene, e faceva un po' di tutte queste cose. Oppure, non so, ricordo che quando poi più grande andavano al porto a prendere la verdura e la frutta per il seminario, e questo ragazzo, questo guida, allora diventato un po' più grandicello, insisteva, era insistente, lo obbligava a passare da noi a salutare i suoi fratelli, perché questo ragazzo aveva adocchiato la sua nipote, che adesso è diventata sua moglie, che poi è diventata sua moglie. Hai capito? Sì. Poi mi viene in mente, non so, un aneddoto, sì. Luigino Bassetto, padre Luigino Bassetto, anche quando è diventato parroco della chiesa Santa Maria Maggiore qui a Treviso, che lo andava a trovare con molta reverenza e che lui diceva: no Luigino, siamo vicini di casa, noi siamo uguali, siamo del Marassetto, noi siamo forti perché siamo del Marassetto, aveva queste espressioni così, ecco. Sì, molto, molto così, umili alla mano. Sì. Bene, Giacomo. Sì, io volevo solo dire al nostro amico bravissimo Antonio Ceccato che ci lasci con delle frasi di speranza. Andremo a fare le ferie in paradiso in ricordo di Monsignor Crozzolin, che il libro lo troverete in tutte le librerie, comprese le nostre amiche suore paoline. E questa lettura potrebbe fermarsi alla prima parte, che già molto ci dà molto lo stesso, anche se non è completa, di com'era questo. Beh, ma se facciamo questo, in tempo possiamo questo leggerlo. Piccolo grande prete che mi ricorda i preti francesi, degli scrittori impegnati, Abda Bernanou a Mauriac. Ecco, questo. Io sono allora, un amante di scrittori francesi. Anch'io. vedo che abbiamo. Bene, delle affinità. Allora l'articolo è stato pubblicato dalla Vita del Popolo l'8 maggio del 74. Le ferie andremo a farle in paradiso. Avete recitato il rosario? Chiese il vescovo alle due buone sorelle. Ogni sera, infatti, dopo cena, eravamo soliti raccoglierci tutti assieme in cappella per la preghiera mariana. Alla loro risposta affermativa continuò: anche noi l'abbiamo già recitato tornando a casa. Così questa sera vado subito a riposarmi perché mi sento piuttosto stanco. Ed io mi permisi confidenzialmente di soggiungere: sfido con quella giornata di oggi, Vostra Eccellenza deve avere più riguardo della salute. Quella domenica 8 maggio, infatti, era stato in visita pastorale a Sclavons, una grossa borgata di famiglie di operai alla periferia di Pordenone. Iniziando con la celebrazione della prima messa delle ore 6, aveva svolto tutto un denso programma di funzioni sacre, di incontri, di visite, fino alle ore 19 della sera, tenendo ben 9 discorsi, sempre pieni di ardore apostolico e di preoccupato impegno per le anime. La mia era una raccomandazione affettuosa, ripetuta altre volte, ma che aveva trovato sempre una resistenza garbata, ma irremovibile. Il suo dono non doveva conoscere misure. Quella sera il vescovo mi diede uno dei suoi sguardi dolci e penetranti fino all'anima e con tanta bontà mi disse: «Guarda, ci rimangono da visitare soltanto ancora 3 parrocchie e poi la visita pastorale alla diocesi sarà terminata. Così avremo modo di prenderci un po' di ferie. Sarà la prima volta, ma andremo a riposarci in montagna nella villa del patriarca di Venezia. So che anche Monsignor Agostini ha bisogno di riposo. Gli ho scritto proprio ieri per questo e combineremo di passare alcuni giorni assieme». E con accento marcato e sorriso sereno continuò: «Se no, le ferie andremo a farle in paradiso». Ci salutammo, dandoci la buonanotte. Fu questo l'ultimo colloquio. Il mattino successivo, lunedì 9 maggio, dovevamo ritornare nello stesso paese per l'esame di catechismo ai fanciulli, che sempre desiderava interrogare tutti personalmente, per la visita agli ammalati ed alcuni ambienti di lavoro. Mi alzai per tempo per poter celebrare la Santa Messa prima della partenza. Alle 5:30 stavo indossando i sacri paramenti nella piccola sacrestia, quando mi si avvicinò la più anziana delle sorelle per avvertirmi, quasi sorpresa: «Don Umberto, il vescovo non ha ancora le imposte chiuse». La incoraggiai dicendolo che avevo sentito muoversi poco dopo le 5. Durante la mia messa però era solito salire in cappella. Quella mattina non si presentò. Il fatto mi sospettì e, non appena terminato il sacrificio divino, scesi immediatamente nel piccolo appartamento privato del vescovo. Bussai alla porta dell'anticamera, ma non ebbi risposta. Entrai e mi accorsi dalla fenditura della porta che in camera c'era la luce accesa. Bussai di nuovo e ripetutamente, chiamai, ma nulla. Intanto anche le sorelle erano scese e mi avevano raggiunto. Decisi di aprire ed entrare. Mi accorsi subito che le coperte del letto erano rovesciate come di uno che si è regolarmente alzato e spontaneamente, voltandomi verso le sorelle, ferme all'ingresso, dissi loro che in camera non c'era nessuno. Quando, inoltrandomi, mi accorgo che steso sullo scendiletto, un po' rannicchiato e appoggiato ad un fianco, giaceva il vescovo. «È qui!» gridai alle sorelle. «È svenuto! Aiutatemi a caricarlo sul letto!» Di fatto mi resi subito conto dell'accaduto. Di peso, con l'aiuto della sorella più giovane, lo collocai sul suo letto. Corsi in sacrestia, presi l'olio degli infermi e, dopo avergli impartito l'estremunzione sotto condizione, gli amministrai l'ultimo sacramento. Così queste mie mani, che da lui erano state unte con l'olio della mia consacrazione sacerdotale, gli restituirono l'unzione sacra per il supremo gesto di pietà. Che cosa era successo quella mattina per tempo? Come di consueto, il vescovo si era alzato verso le 5, aveva acceso la luce, aveva deposto sullo sgabello accanto al letto, certamente imprimendogli un ultimo bacio, il piccolo crocefisso di metallo che, coricandosi abitualmente, teneva appeso al collo, stretto con le mani, e alzandosi nel cambiamento di posizione del corpo da orizzontale a verticale, venne fulminato da un violento attacco di angina pectoris. Si accasciò lentamente lungo la sponda del letto del suolo e rimane esanime. Quando lo trovammo, la morte improvvisa non aveva ancora segnato il freddo del suo passaggio. Aveva gli occhi semiaperti, le mani composte sul cuore, il volto sereno atteggiato a lieve sorriso. E così l'olocausto era compiuto sulla trincea di un apostolo insonne, in una oblazione suprema di amore da buon pastore per il suo gregge fino all'ultimo respiro. Bello sto pezzo, eh? Molto bello. Veramente, veramente. Facciamo in tempo a leggere il secondo pezzo. Possiamo leggere ancora qualche frase, diciamo. I bambini di Sclavons attendevano numerosi sul sagrato, vivaci ed irrequieti, perché quella mattina il vescovo tardava, e capitò come un fulmine la notizia. La comunicò con le lacrime il buon curato. È morto il vescovo. È morto il vescovo, ripeteva attonita la gente, mentre la notizia si divulgava e giungeva ai confini più remoti della vasta diocesi. Tutti lo conoscevano, tutti lo avevano visto, lui che aveva percorso senza tregua le varie parrocchie, lui che aveva aperto il cuore a tutte le sofferenze della guerra e a tutte le miserie del dopoguerra. La morte di un vescovo non avviene senza un'eco profonda, e quella di Monsignor D'Alessi pareva avesse provocato un vuoto in ogni casa. Quante volte nel turbine il pastore si era alzato e aveva interposto la sua vita per salvare il gregge, ora là è immobile, rivestito degli abiti pontificali come se dovesse celebrare nel sacrificio dell'amore il suo ultimo incontro con i suoi figli. Bene, bravo Antonio. Bravo. Allora, ormai ci resta poco tempo, quindi la signora vuole dirci qualcosa ancora, qualcosa di così, qualche altro aneddoto, qualche altra curiosità? Che leggano il libro. Ah sì, no, sicuramente se leggono il libro troveranno tante cose. E io spero che dopo questo volumetto ci sia qualcos'altro per approfondire ancora di più la figura di mio zio. Che qualcuno abbia il coraggio, la voglia di fare una biografia vera dall'inizio alla fine, perché penso che allora solamente in Caritas ci sono due stanze piene di scatoloni di documenti. Chi vuol cercare ce n'è tante cose. Poi io spero anche di riuscire di fare qualcos'altro, non so, mi piacerebbe pubblicare le sue prediche perché sono molto profonde, e ricordo che qualcuno del mio paese e anche di Treviso andava apposta alla messa delle 9 in Duomo per ascoltare le sue prediche. Bene, ecco. Allora diciamo a chi ha buona volontà che vada in cerca di questi documenti, che legga, e che legga il libro soprattutto. Ecco, sì. Appunto. Bene, noi, vero Antonio, ringraziamo. Ringraziamo naturalmente i nostri partecipanti che sono stati, certo, molto esaurienti. Vero? E devo dire che è la prima volta che abbiamo, come dire, un'azione di promozione, se vogliamo, di un libro familiare, sì, da parte di un familiare di un nostro ospite. Ecco. Grazie. Ma noi abbiamo qualcosa ancora in comune, Antonio, per il prossimo futuro. Certamente, ma almeno lo speriamo. A Dio piacendo, ecco. Ecco, sì, bisogna sempre dire così. Ecco. Allora noi ringraziamo la signora Silvana, ringraziamo Giacomo, che è stato veramente un bravissimo supporto. E rinnoviamo ancora gli auguri di buon anno a tutti quanti, vero Antonio? E alla prossima occasione. E alla prossima occasione, chissà che ci ritroviamo ancora. Naturalmente. Ecco. Silvana, saluto. Grazie di tutto. Silvana, grazie di tutto ancora. Grazie Giacomo. E grazie a te. Ci rivedremo. E grazie a te. Ci vediamo, sì, vediamo così. E ci sentiamo. E ringraziamo anche il nostro Antonio. Che... Grazie Antonio. Grazie i nostri ascoltatori, ecco, e la nostra ascoltatrice. Antonio, ciao. Alla prossima. Ecco. Io vi saluto, come sempre, affettuosamente, dicendovi ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.